Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, seconda parte di questa serata, si cambia completamente genere, ravviviamo un po' di allegria, un po' di, come dire, di profano. Prima avevamo il sacro, adesso abbiamo il profano. Buonasera a voi tutti. Buonasera. Ciao Ale, è una vita che non ti vedevo. Ciao Agostino. Allora, chi sono, chi siete? Ditelo voi. Vai Ale. Noi siamo l'associazione Muge, un'associazione che fa musical. In parole povere. Vai, continua, fai. Siamo nati nel 2003 e abbiamo portato in scena il nostro primo spettacolo nel 2005. Appunto, spettacolo spettacolare. Che è di questo che parliamo stasera, giusto? Sì, un gruppo di ragazzi, un sogno, una passione che gli emoziona, fantasie, stati d'animo, un progetto nato come un semplice gioco, è così? Sì. Un gioco, mi arriva una telefonata e uno degli ideatori mi chiama e mi dice: vieni a fare un musical. Io, non ho mai fatto una cosa del genere e niente, mi sono messo in gioco. Hai già cantato però? Sì. Quindi non sei vecchio, cioè nuovo di esperienza, sei vecchio di esperienza canterina per modo di dire, sì. Però non musical no, è difficile. No, anche di età. Anche di età. Sì. Molto più, sì, io sono molto più di te. Però. Sì, ma non funzionano le webcam. Sei fortunato. Se per quello. Allora, un gioco che poi è diventato un progetto praticamente. Sì, siamo partiti un po' per scherzo e poi niente, sempre di più ci siamo allargati. Anche come quantità di persone, perché mi sembra che all'inizio eravamo una ventina forse, adesso siamo 30, 35, 32, non mi ricordo, e niente, è diventata una cosa sempre più seria, anche con platee abbastanza numerose. Adesso questo nuovo spettacolo, io ho letto nelle input che mi sono arrivate, è totalmente diverso, è cambiato, si è allargato rispetto alla precedente edizione. Sono cambiate le scenografie. Intanto focalizziamo che spettacolo è. Allora, è una trasposizione, che parole vale dire? Liberamente. Una trasposizione del film Moulin Rouge. Perfetto. Noi l'abbiamo chiamato spettacolo spettacolare perché ci piaceva di più. Ma ci sta bene. Io vi ho visti un paio di mesi fa su a Montegrotto e ho passato 2 ore il pomeriggio veramente gradevoli. Poi c'era Erika, vabbè, insomma, che è una carissima amica che tra l'altro salutiamo, che stasera ha una indisposizione, non può essere presente, ci dispiace a tutti ovviamente. Lei, Maurizio, la considera l'usignolo. Sì, da quando ha fatto quel pezzo meraviglioso a proposito di Shoah. A proposito di Shoah, sì, canzone del Bino del Bento del grande Francesco Auschwitz, praticamente, titolo breve. Eh sì, l'usignola abbiamo soprannominata così. E quindi ciao Erika, se ci stai ascoltando, ma probabilmente no, perché sarà sotto le coperte, magari. Che ne sì, so. Può darsi. Sì, l'abbiamo tenuta a riposo, visto che questo fine settimana abbiamo gli spettacoli, abbiamo preferito. Quando è che ce l'hai allora? Sabato e domenica questa, siamo a Colonia Veneta, in provincia di Verona. Tra l'altro sabato è già sold out, è tutto esaurito e perciò sono disponibili solo dei biglietti per la domenica. Perché sanno che sabato ci sono io, allora sono sabato. Vabbè, dove eravamo rimasti al discorso iniziale allora che dicevo? 2005 sei partito. 2005, 2005 abbiamo fatto il primo spettacolo e sono partito, io parto da lontano per arrivare poi ai giorni nostri. E abbiamo messo in scena la prima volta spettacolo spettacolare e in quell'edizione che aveva le canzoni tutte in inglese originali l'abbiamo fatto 6-7 volte. Ok, ecco. E poi come mai l'idea molto interessante, difficile come abbiamo detto prima di partire dalla trasmissione, molto difficile riproporre le canzoni originali in inglese, riproporle in italiano. Come è stata questa idea? Un progetto ambizioso, non è semplice. Diciamo che visto che volevamo riprenderlo in mano questo spettacolo che avevamo fatto un po' di anni fa e rimodernarlo, una cosa in più secondo noi poteva essere il tradurre e trasformare tutte le canzoni anche per farlo capire un po' di più alle persone e di portarlo tutto in italiano. Noi abbiamo avuto, come al solito, come succedono in tutte le cose, molte persone gli è piaciuto, altre un po' meno, però una volta che hai preso una linea devi, devi cercare di mantenerla, insomma. Noi siamo molto soddisfatti, anche noi per primi, quando abbiamo iniziato a farle, abbiamo capito subito che poteva funzionare perché ce le ricordavamo molto bene subito le parole, cioè siamo anche riusciti, ci abbiamo messo un po' di tempo per questa, farle. Questa sera non sappiamo se sarà così in realtà, perché non abbiamo niente di scritto, purtroppo non ci sono le webcam che testimoniano questa cosa, però insomma, visto che lo spettacolo è sabato, insomma, si spera che riusciamo a ricordarci i testi. Fatelo, via, la ce lo fate sentire subito un testo? Sì, si può. Si può, siamo subito, si può. Subito. Radio Verde, rompiamo il ghiaccio. Sì, okay. Oltre ad Alessandro c'è anche Erika Zanchetta che fa la parte di Satin assieme a lui, insomma. Che si alterna con Erika. Che si alterna con la Erika De Lorenzo. Possiamo, prima di cominciare, qualche secondo, la trama di Moulin Rouge, così la gente può sentire, può capire velocissimamente. Allora, beh, per chi non la conosce, è la storia è ambientata a Parigi agli inizi del proprio il 1900, perché si parla dell'ultimo dell'anno, che dal 1899 arriva al 1900. È tutta ambientata dentro il Moulin Rouge ed è la storia di questo amore tra la prima ballerina del Moulin Rouge e questo scrittore inglese che va a Parigi in cerca della rivoluzione bohemienne. E praticamente tutto lo spettacolo si svolge in questo universo del Moulin Rouge con le ballerine di Cancan. Ecco perché all'inizio diceva che si passava a parlare del dopo il sacro e il profano. Profano, esattamente. Ok, cosa ci fate ascoltare? Ma io direi che partiamo con l'Elephant Love Elephant Medley. C'è solo un modo per farlo, baby, è pagare tutto qui. Una notte, dai, solo una notte, dai. Perché no, paga, io ci sto. Dimmi, lo farò, per amore solo lo farò. Sei un folle tu, non parlarmi più. No, non smetterò. Senza il tuo amore io morirò. Oh baby, io non smetterò. Nessuno crede più a stupidi versi d'amore. Mi guardo intorno e vedo che non è così, no. Vuoi riempire il mondo coi tuoi stupidi versi d'amore? Beh, che male c'è, vorrei sapere. Perché io dico che l'amor ci innalza verso il cielo come un'aquila, alto volerà. L'amore è solo una follia, te ne accorgerai, ma sarà tardi ormai. Ma se lo faremo, saremo eroi. Tu mi userai. No, giuro, non lo farò. Ed io? Io berrò sempre, lo sai. Perché non provare? Io non lo so. Dobbiamo provare. Dirmi di no. Mai niente ci terrà insieme. Ma almeno un giorno proviamo, dai, ce la faremo insieme per sempre. Noi riusciremo insieme per sempre, ce la faremo. lasciato il mio cuore. Hai rubato il mio cuore. È bella la vita se tu sei con me. Capisci, Maurizio, perché è spettacolare? Però sono tanti anni che trasmettiamo qua, è la prima cosa che... È la prima volta che capita un musical live, proprio live al 100%. Infatti, mentre cantavano, stavano anche ballando. Assolutamente, non è mai cosa meravigliosa, veramente, non mi era mai capitato. Ne ho passate tante musiche, musicalmente parlando, però questa era la prima volta, ma in senso positivo, assolutamente. Grazie. Complimenti. Grazie. Complimenti. Facciamo un attimo di break. Sì, esattamente. Sì. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Spot. Siamo noi, Ida Guglielmotti e Marco Parce, ad accompagnarvi dalle 17.06 nel viaggio virtuale di Serata in Blu. Anche quest'anno ogni giorno un tema d'apertura: la strada e i viaggiatori, il web, la televisione, il cinema e il teatro, psicologia e pedagogia. Nella seconda parte invece gli appuntamenti di cultura e spettacolo, in collaborazione con le redazioni locali. Ed in chiusura le rubriche di turismo internazionale, i libri, la scienza, piccole lezioni universitarie ed arte. Serata in Blu, da lunedì al venerdì, dalle 17.06 alle 19.00. Sulle frequenze in blu. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Una serata stranissima stasera con Blu Radio Sera, così faccio anche un gioco di parole con Agostino Spalaore e con Maurizio Calzavara. Questa sera abbiamo voluto dividere la trasmissione in due parti, prima con Schindler's List, la musica di John Williams e questo concerto appunto dedicato alla memoria, e poi c'è questo come dire, spettacolo spettacolare, la cosa proprio giusta da dire, di queste persone che sono simpaticissime e che ci stanno spiegando che cos'è un musical. Sì, tu non hai visto Agostino, hanno guardato l'orologio, non è mica finita, eh. Non è mica finita. No, no, stavamo dicendo, cavolo, è già passato tantissimo tempo. Sono l'inizio. Magari la prossima volta faremo una trasmissione di un'ora e mezza, così avrete più spazio, che ci canterete più canzoni. Volentieri. Magari il prossimo musical. Facciamo. Se avete in mente qualcos'altro? In realtà ce ne sarebbe un altro che abbiamo già fatto. Ma si adesso può dire qualcosa? Sì. L'idea parte dal film The Commitments. Mm. Però noi abbiamo trasformato le canzoni da soul, l'abbiamo portato a rock. Ho capito, sì. È diventato, infatti si chiama Rockadelica. Era l'inizio, siamo partiti, l'idea di base era quella di raccontare un po' la storia della musica dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Infatti ci sono canzoni da Elvis Presley fino a Madonna. Anche quello è molto, anche perché quello è più fra virgolette originale, perché abbiamo preso solo lo spunto dal film, mentre nel Moulin Rouge alla fine la base portante è quella. Certo, sono d'accordo con te. Ritornando al discorso del Moulin Rouge, le difficoltà di cantare pezzi in italiano, anche dal punto di vista della metrica, come l'avete, siete riusciti a sorvolare a queste difficoltà, a cercare di portare avanti un discorso difficile, secondo me, che dall'inglese all'italiano, si sa, cantando in italiano non è semplice, assolutamente. Chi mi risponde? Nessuno. Allora abbiamo legato i cantanti. Questo è importante, fondamentale. Li abbiamo frustati per un mese. O li facevo ballare o cantare. E poi hanno detto sì, ok, possiamo fare. La minaccia era che la coreografa ci faceva ballare per sempre. No, ok, Ale però può dirvi che sì. effettivamente sì. All'inizio era uno dei problemi grossi. Questo era un pezzo molto difficile. in italiano, in inglese forse hanno una propria particolarità, ma in italiano è molto difficile. Inizialmente non è stato semplice, effettivamente avevamo dei problemi appunto per la metrica e... Dopodiché, confrontandoci, aiutandoci e capendo un po' meglio come muoverci, è stato più semplice e le abbiamo fatte veramente nostre queste canzoni. È stato più semplice poi interpretarle e viverle anche. Quindi l'avete già prese in italiano, sono già simpatiche. Ma assolutamente. È stato, in realtà è stato bellissimo fin dall'inizio perché ci emozionavamo tra di noi. Era bellissimo vedere come, cioè, come anche chi ci ascoltava, dei nostri amici, appunto del Muge, degli altri componenti del Muge, riusciva ad emozionarsi semplicemente ascoltando le parole in italiano. È stato veramente emozionante per noi che le cantavamo e che avevamo questo privilegio. E però in italiano chi le ha scritte, chi le ha proposte? Dimmi. La direzione. Un lavoro a più mani. Un lavoro assieme. Praticamente hanno collaborato molti ragazzi di Muge. Ovviamente abbiamo cercato di prendere le idee un po' di tutti, anche perché le canzoni sono tante. Certo. E non avevamo molto tempo per farle, però abbiamo visto che raccogliendo le idee di varie persone si raggiunge un buon risultato e successo. Io tra tutti i pezzi, cioè la locandina qua, Agostino lo sa, mi sono fermato a Children of the Revolution, che è un pezzo assolutamente incredibilmente interessante, che io sono un rockettaro. Come mai Children of the Revolution, che ha una lunga storia? Certo, beh, diciamo che c'è anche nel film. C'è anche nel film. C'è nel film e ovviamente Children of the Revolution, perché parla della rivoluzione bohemiana. In realtà è molto breve, durerà un minuto, durerà un minuto nel musical. E perciò alla fine non aiuta un cambio scena, sì, esatto. A noi serve per un cambio scena. In realtà dura un minuto, però per gli attori è anche abbastanza complicata. Infatti l'abbiamo provata anche ieri, perché loro in realtà devono fare anche un balletto durante sta canzone. La coreografa, che è Martina Pinton, che è qui davanti a me, fa presto a dire aiuta un cambio scena, perché in realtà è vero che noi facciamo una cosa che io non dico, perché sennò chi viene a vedere lo spettacolo perde c'è un cambio proprio, no? Certo. Però quando usciamo poi ci sono dei passi che devono essere fatti, sincronizzati, perfetti. Tutti abbiamo anche tempo. La fotografa qua, così. Sì, vedo che c'è la fotografa. Abbiamo la fotografa, che non è la Chiara questa volta. No, è Giovanna. Senti, io volevo sapere, per gli ignoranti, diciamo, che sono a casa, senza offesa ovviamente, cosa narra? In 30 secondi ce la fate un resoconto, cioè una storia, piccola storia di questo musical, di questa storia di questa ragazza che... Allora, nel 2000... No, è una storia d'amore fondamentalmente, fra lo scrittore squattrinato Christian e la cortigiana, la stella del Moulin Rouge, che è Satin, che è qui di fianco a me. Una delle due. Ma io sono... Cioè, quando ne ho una di fianco non posso pensare all'altra. Sembra giusto. C'è uno scambio di persona praticamente. Viene scambiato Christian per il Duca e, in parole povere, poi lui si innamora di lei. Lei prima no, poi sì, poi forse, poi ma. Forse. E chi viene a vedere? Anche sì. E poi integratemi, ma dai, è bello ascoltarti. Grazie. No, fa un bel effetto parlare con tutti. Sì, vero. Sì, sì, proprio. E alla fine muoiono tutti. No, no, però non possiamo dire la fine. No, cioè, no, assolutamente. Fino... Io voglio sapere una cosa, però. Apro una piccola parentesi. Chi è che ha fatto i vestiti? Ce n'è uno che mi ha fatto impazzire, forse vale. Quello sagomato all'interno. Ah, il sitar, la nostra. Allora, sitar. Diciamo che la base l'ha fatto quello una strumento. Signora. È bellissimo quel vestito. Che conosce il regista. E l'addobbo esterno, le decorazioni le ho fatte io. La coreografa, quindi, Martina Pinton. Praticamente questa signora, che è un'amica di mia mamma, prima mi ha fatto... Ci ha fatto avere un mini campione alto 10 centimetri del vestito finito, e poi ci ha fatto quella versione definitiva. Chi è che se lo mette poi alla fine quel vestito? Toulouse. Se lo mette Toulouse-Lautrec. il magico sitar. Il magico sitar. Il regista che è qui davanti, che difficoltà ha avuto a gestire 33 persone? Nessuna difficoltà. Andiamo, cioè, tutti d'accordo? Siamo tutti d'accordo, sono tutte persone che ascoltano dall'inizio alla fine, impegnate. Ci ha trafitto col naso. No, beh, ovviamente... Le teste sono tante, essendo tanti, le prove ovviamente noi non possiamo fare, essendo amatori non possiamo fare prove tutti i giorni, magari divisi in settori, dobbiamo cercare di ottimizzare il tutto, e perciò trovarsi tutti assieme, la cosa più complicata è cercare di far capire anche a quelli che magari in quel momento non devono fare niente, stare attenti un attimo. Ho capito. Una cosa del genere. E poi tutto prende forma nel tempo. All'inizio è difficile sia per noi a dirigere e sia per i ragazzi a comprendere quello dove si deve andare a finire. Poi un po' alla volta. Anche perché alla fine ormai ci conosciamo con metà circa ci conosciamo da diversi anni ormai, e perciò riusciamo anche a capire quando è incavolato, allora ci stiamo quello non succede assolutamente mai. Comunque è bellissimo vedervi, perché siete molto disinvolti sul palco. Credo che non sia molto facile per voi essere lì a rappresentare questa opera un po' particolare, tra l'altro anche molto famosa, perché Moulin Rouge, insomma, è una bella prova, diciamo. Eh sì, la difficoltà è anche quella, perché ovviamente molte persone vengono appunto per vediamo questi come hanno trasformato il film, perché poi è quella la cosa. Sì, perché il film ha avuto tanto successo. E ovviamente è anche impossibile trasferire un film con magari con le stesse emozioni e le stesse scene in teatro, proprio anche per un fatto fisico del teatro. Certo, perciò abbiamo dovuto adattare molte cose, però secondo noi e anche secondo alcune persone che ci sono venute a vedere ci siamo riusciti anche abbastanza bene. Secondo il sold out, sì. Esatto. Quello fondamentale. Esatto. Cosa abbiamo in scaletta, Agostino, adesso? Se vuoi ci facciamo una partita a carte, che ne so, cosa abbiamo in scaletta? Facciamo cantare ancora, dai. Facciamo cantare ancora, allora, sì, certo, stavo scherzando. La spieghiamo questa però, sì. Perché questo è un pezzo originale che si intitola Come What May, nella versione originale, e invece nella nostra versione si intitola Stai con me, ed è il pezzo che Christian scrive quando capisce che l'amore probabilmente è un amore impossibile. Scrive questo pezzo e dice a Satin: ogni volta che lo sentirai ci ricorderemo del nostro amore. Le battute non sono queste, però. Ma il concetto è questo. Il concetto è questo. Dopotutto manca anche tantissimo lo spettacolo, perché c'è anche giusto che non si ricordi. No, sto cercando di pulire la mente. La facciamo partire? Sì, ok. Strano sì, sentirsi così. La passione cresce dentro me. Vorrei baciarti ogni giorno di più. Se cambia il mondo, io non cambierò. Ma lo so, per sempre ti amerò. Stai con me. Stai con me. so, per sempre ti amerò. Ora il mondo vive in piena armonia, ora intorno a me vedo solo poesia. Ora la mia vita ha una ragione in più, e quella ragione sei tu. Nelle montagne lo sai, nei fiumi oramai, saranno ostacoli tra me e il tuo cuore. Cadono le stelle dal cielo nel mar, ma lo so, lo so, per sempre ti amerò. Stai con me, stai con me. Ora lo so. Che dolcezza, Maurizio. Se tu non hai notato una cosa, l'ho notato io. La coreografa faceva da regista, perché dava i tempi, dava i tempi ai due cantanti. E il regista si è accorto che aveva lasciato fare, aveva lasciato stare. Lei faceva da regista. No, ma anche perché è molto difficile cantare in radio. Io lo so, volta che per perché aiutavo, cercavo di sostenermi. È difficile un sentirsi, è difficile si vedeva un po' ascoltarsi, sentirsi, ma, è difficile. Ma poi ma è bello così, Erika non mi guardava mai, però insomma. È emozionata. Da molta emozione cantare in radio. Un musical, poi, che è la prima volta nella nostra storia di Blu Radio Veneto, cioè di Radio in Blu praticamente, è la prima volta, almeno qua a Padova, non so, in ambito nazionale, però qua, da noi sì, è la prima volta. Beh, ci sono. Ci sei sempre la prima volta, chiaramente. Penso. Che effetto ti fa essere al posto di Nicole Kidman? Oddio, non mi sono mai paragonata a lei, quindi... Non dal punto di vista musicale, parlo come attrice, voglio dire, insomma. È di grande ispirazione, mi è capitato spesso di guardare il film proprio per appunto prenderne ispirazione, spunto, perché bisogna sempre correggersi e sempre mettersi alla prova, diciamo. E quindi, no, è bello poter soprattutto appunto prendere ispirazione, capire, e anche perché lei è un'attrice straordinaria, quindi... Però forse la tua voce è più bella della sua. Oddio, questo non lo so. Sì, sì. Questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi. Grazie. Fai parte di qualche altra band, tu o solo musical? Hai qualche altro progetto? Loro sono una grande droga, diciamo. Muse è una grande droga e è la mia priorità dal punto di vista musicale in questo momento, sicuramente, sì. Non ho altri gruppi dello stesso livello. Per lo suoni per questo momento. Sì, beh, canto, mi capita. Sì, sì, sì, scusa, certo. Canto, volevo dire. Sì. Canti, cosa ti piace fare? Che musica? Beh, qual è la tua musica, voglio dire? Non ho un genere particolare, spazio un po' in quello che mi capita. E certo. Cosa spazi adesso particolarmente? Io c'è un motivo, tu continua che dopo ti dico il perché. No, voglio saperlo subito. Lo so io perché. Beh, cosa spazi adesso particolarmente? Beh, no, allora in questo periodo ovviamente mi sto dedicando allo studio di queste canzoni. Hai svirgolato bene. Io volevo arrivare in altro, tu forse hai capito, io volevo arrivare dove spazi di più in questo momento per farti fare un flash di quello che amavi di più musicalmente parlando, cantare. Cioè un pezzo che ami particolarmente al di là del film. adesso. Un'altra canzone, un esattamente. Che non parlo del film, non della conoscenza del film. Eye in the Sky di Noah. La puoi fare un secondo? Quello arrivava a quello io. Cercava di deviare il discorso. Potevi dire gioca giù. Forse era meglio. Vabbè, ok, questo adesso ti sei concentrata su questo praticamente. Questo pezzo qua ami particolarmente. Amo, sì, ma in realtà non ce n'è uno, quindi sì, mi sembra riduttivo, però... Va bene, ok. Dimmi. Non ho capito... No, io volevo... Se fai 30 secondi, ce la fai 30 secondi. Mi accennassi sto pezzo qua 30 secondi, se ce la fai, se no pazienza. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken a lot of chances before, and I don't wanna take any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. Vedi, volevo arrivare a questo volevo arrivare. È bravo, cioè. complimenti. Grazie. Avevamo già capito che avevi una bellissima voce. Ale, tu? Io gioca giù. Gioca giù. Autostop. Dormire. Volevo sapere come hai fatto a fare queste selezioni. Hai messo qualcosa di particolare? Le hai fatte tu le selezioni audio? Allora siamo partiti. Beh, diciamo che si sono trascinate in tutti questi anni, diciamo, perché da quando siamo partiti, poi alcuni sono restati con noi, altri ovviamente sono cambiati. Abbiamo messo anche degli annunci, soprattutto però sono arrivati tramite conoscenze, amicizie, cose del genere. È stato un periodo però che le abbiamo fatte abbastanza seriamente, sì, insieme anche a Erika De Lorenzi. Insieme a Erika, che curava diciamo la parte musicale dei ragazzi, insomma. È il suo pane. Due o tre serate sì, il suo pane. Sì, insegna dappertutto. Sì. Allora, Maurizio, siamo arrivati quasi... Sì, abbiamo quasi... Mi tengo 4 minuti e 24 secondi per la canzone che dovevamo mettere sull'inizio, che poi invece abbiamo, che è quella cantata da loro, la fanno in maniera splendida, che è Lady Marmalade. Ah, solo che non possiamo farla dal vivo, sarebbe un po' complicato. Ci mancano le cagne di diamante, ci mancano. Volevo solo chiedervi una cosa velocissimamente: quante volte l'avete visto questo film prima di avere l'idea di fare una cosa? Io l'ho visto la sera stessa in cui mi hanno chiesto fare coreografa. Ecco. Io l'ho visto un po' prima al cinema. Addirittura a me non piaceva. Poi c'è un nostro amico in comune che mi fa una sera davanti a una pizza: sarebbe bello mettere in scena il Moulin Rouge. All'inizio l'ho preso proprio per matto. Subito. Però a dire il vero non l'ho guardato molte volte il film. Anche perché poi iniziando a fare prove comincia un po' a stancarti. Certamente, potremmo doppiare, sì, abbassare il volume e doppiare gli attori. Ho capito. Adesso. E voi stessa maniera avete visto più di una volta? Ecco, loro forse l'hanno visto di più. Allora, io in realtà quando ho cominciato a fare questo spettacolo non l'avevo neanche guardato. Ah, okay. L'ho guardato dopo perché non volevo essere condizionato dalla performance, anche se è un condizionamento positivo, perché certo. I professionisti. E la nostra protagonista? Io l'ho visto anche 3 giorni fa. Perfetto. Un po' di esperienze diverse. Okay. Un consiglio lo voglio dare agli ascoltatori di andarlo a vedere. C'è una scena che mi è piaciuta moltissimo, ve lo voglio dire, quando cantate Your Song, nella versione cantata ovviamente in italiano. Quello è un momento molto bello, molto romantico, molto dolce. sono bravi anche a ballare. E sono bravi a ballare. Ma è veramente, vi consiglio di andarlo a vedere. Io l'ho visto, se posso vi vengo a rivedere, perché, a parte che a me la musica piace in senso. Poi beh, noi ti aspettiamo se vieni. E poi grazie. Ti mando un po' di baci adesso attraverso il vetro. Sì, perché Your Song la canto io. Lo so. Sì, a proposito, volevo anche dire, non l'abbiamo nominato, che l'altro Christian è Andrea Pesce. E poi volevamo anche salutare anche tutti gli altri, perché sì, sicuramente ci staranno ascoltando. Certo. Non potevamo venire certo, tutti. Certo. Siamo un po' troppo. Esatto. Ma poi alla fine siete tutti quanti sul palco, però. Bella sì, anche la scena sì, sì, che entrate con tutti questi un po' alla volta. Bellissima. Diciamo che siamo tutti sì, sul palco e da una sera all'altra cambiano i cast, quindi addirittura due persone sanno due parti. Ehi, la signorina Pinton parla, ragazzi. Ehi, abbiamo fatto parlare. Va bene, allora ridiciamo il tutto. Dove siete? Cosa fate? Allora, sabato e domenica siamo a Colonia Veneta, in provincia di Verona, e sabato alle 21 e domenica alle 17. Teatro Ferrini, la via non me la ricordo. Puoi ricordare il nostro sito, così il sito, vanno a vedere. Sì, il sito www.muge.it, e siamo anche su Facebook, ci trovate. Molta gente ormai forse segue più Facebook che sì, non le pagine dubbio, web. E così potete vedere anche delle foto e magari un po' di video, così vi rendete conto di quanto mediocri siamo. No, io allora, con una promessa, adesso Agostino lo sa, un'altra volta venite qua e fate tutto l'ora e mezza di musical in dai, diretta. Dai, sarebbe bellissimo. Tutto il Moulin Rouge. Anche con un po' di recitato. Ma dai, abbiamo tanti microfoni. Sì. Insomma, potremmo fare qualcosa. Potremmo fare, sì. Tutto quanto. Va bene. Okay, sarebbe una bella idea di farlo. Sì, certo. Sì. Volentieri. Allora riprendiamo in parola. Beh, okay. se ovviamente se non ci sono i ballerini, come attori potremmo anche starci, perché alla fine siamo in 10. Sì, si può fare la parte cantata, esatto. Esatto. Sì, sì. Sì, sì. Si può. Magari uno che narra, ecco, e così sì, spiega cosa succede. Spiega cosa Martina, succede. Martina sì. Perfetta. Ragazzi, noi vi ringraziamo di essere venuti. Grazie a voi. E in bocca al lupo per sabato e domenica. Crepi. E vi aspettiamo alla prossima. Grazie. Grazie. Buona serata. Grazie serata a voi. Buonasera. Allora, noi vi salutiamo, Maurizio, salutiamo anche noi. Vi diamo appuntamento per quello che mi riguarda giovedì della settimana prossima, sempre alle ore 21, sempre qui a Blu Radio Veneto, sempre con la voce di Agostino Spolaore. E tu invece ci sei? Ci sono martedì, ci sarò mercoledì e ci sarò giovedì. In ogni caso, martedì con un altro musicista da live, assolutamente live, quindi riprendiamo il discorso dei live qui a Blu Radio Veneto. E adesso non cambiate canale, che c'è Alberto Prisco con la sua classifica di musica rock, il suo programma di musica rock, tra l'altro il nostro direttore artistico, quindi ne abbiamo ben d'onda di essere molto onorati di averlo qui. E ci salutiamo con un pezzo sempre tratto dal musical, che è Lady Marmalade. Ok, ciao ancora a tutti voi. Ciao. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Come through with the money.